Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Gli eroi socialisti del lavoro si ritrovarono disoccupati. La cooperativa di riparazioni TV Stella Rossa chiuse i battenti. Fui l'ultimo a uscire e spensi la luce. Venti di cambiamento soffiavano sulle polverose rovine della Repubblica Democratica. Il giorno fissato per il ritorno della mamma si avvicinava, lento ma inesorabile, con l'incedere marziale di un carro armato sovietico. Peccato che tua madre non viva questi momenti. Forse invece è meglio così. Tutto quello in cui credeva è svanito nel nulla, nel giro di pochi mesi. Il film Goodbye Lenin è un film di Wolfgang Becker del 2003. Parla di un ragazzo che è costretto a ricostruire una stanza in cui è perfettamente ricostruito in tutti i suoi simboli l'impero del socialismo reale, perché la mamma era stata in coma e non aveva avuto possibilità di elaborare la caduta del muro, e quindi gli ha ricreato degli oggetti, dei cibi e delle situazioni che la riportassero a un clima. Beh, è facile ricostruire epoche storicamente così connotate attraverso la storia degli oggetti, e questa mattina lo faremo attraverso appunto la storia e la vita privata degli oggetti sovietici. È uscito da poco un libro per Zironi Editore del professor Giampiero Piretto, che è un docente di cultura russa e metodologia della cultura visuale all'Università degli Studi di Milano, che parla appunto di questi oggetti che hanno raccontato il mondo del grande blocco sovietico. Qualcuno, vedrete che ancora ce li portiamo oggi nel nostro immaginario, nei ricordi di una generazione degli anni 50 che ne faceva uso comune non sapendone e non cogliendo nemmeno la matrice. Ma quello vorremmo questa mattina dagli ascoltatori, mentre vi raccontiamo questi oggetti, oggetti che ormai entrano nei musei e diventano supporto tangibile per memorie del passato. Quali sono gli oggetti della nostra contemporaneità che secondo noi un domani saranno trattati con la stessa cura, con la stessa ammirazione, con lo stesso senso di oggetto museale? Quali sono gli oggetti che voi usate comunemente? Mi viene in mente da dire l'iPhone. L'iPhone forse è un oggetto che un domani si dirà, se vogliamo definire la nostra epoca rispetto al socialismo reale, e alcuni oggetti che raccontano il socialismo reale sono quelli che immediatamente riportano a quell'epoca, definiamo la nostra contemporaneità come il fancazzismo irreale. Questa mattina quello che chiedo agli ascoltatori è di definire gli oggetti simbolo del fancazzismo irreale, che è l'epoca che stiamo vivendo. 800 24 00 24. Voi слышите, грохочут сапоги. Barattoli. Nei mesi estivi, in dacia o nell'appartamento di città in coabitazione, ci si dedicava a marinare, mettere in salamoia, passare e bollire frutta, bacche, verdure e funghi. Dai boschi la domenica pomeriggio si tornava con il treno elettrico suburbano che raccoglieva a ogni fermata orde digitanti carichi di secchielli colmi di funghi, bacche, mele. I più abbienti disponevano di un'automobile e su di essa caricavano barattoli già pieni di delizie, che sarebbero stati poi riposti in casa, solitamente sopra gli armadi, in attesa dell'inverno e dell'occasione giusta per aprirli. Il barattolo aveva un coperchio spesso improvvisato, in mancanza di chiusura ermetica, e aggiungeva fascino e mistero. Si ricorreva alla carta, alla stoffa, più raramente alla plastica, materiali che venivano legati al collo del recipiente con cordini oppure elastici. Trovate che sia molto lontano dal nostro immaginario, dal nostro ricordo, il barattolo per la conserva, il barattolo riciclato, pulito, lavato, bollito, a cui si levava l'etichetta, il contenitore della Nutella che diventava un bicchiere, diventava qualcos'altro. Guarda che noi tutti abbiamo qualcosa del grande e tramontato impero sovietico. Giampiero Piretto, buongiorno. Buongiorno. Giampiero Piretto è l'esperto, il maniaco collezionista, ma lo fa perché fa parte della sua missione professore, di oggetti russi, che ha pubblicato questo libro. Ci sono, professor Piretto, alcuni oggetti che in realtà sopravvivono ancora nel nostro quotidiano e non ci rendiamo conto di questa rassegna di oggetti del grande impero russo? E poi quanto sono stati supporto di ideologia oltre che di immaginare questi oggetti? Sicuramente sì, sono parecchi gli oggetti che continuano ad esistere, molti esistono anche nella nostra realtà contemporanea italiana, Abbiamo ascoltato questo brano dal capitolo dedicato ai barattoli. Io ho un babbo e una mamma che passano l'estate a preparare conserve, quindi gioco in casa su questo fronte. Quello che ho cercato di trasmettere o di raccontare in questo libro è la specificità del significato di questi oggetti, quindi perché in Unione Sovietica un barattolo pieno di cetrioli o di funghi in salamoia aveva un valore particolare. Era sicuramente una riserva per l'inverno, quando non si trovava verdura fresca, quando i negozi erano privi di approvvigionamento e c'era una questione di sopravvivenza. Ma per me, che la vivevo da straniero, era una specie di passepartout, era una prova iniziatica. Quando la padrona o il padrone di casa, dopo una serie di frequentazioni, decideva di mettere mano al barattolo, e a un certo punto della serata o della nottata si diceva, guardando verso l'alto, quindi verso il tetto dell'armadio su cui questi tesori erano conservati, e se aprissimo un barattolo di pomodori, le facciamo prima con lei e poi col tu assaggiare i nostri pomodori, voleva dire che eri entrato. Era un sacrificio domestico, era una prova iniziatica alla riserva di felicità. Sicuramente, se per te aprivano un barattolo, eri davvero un amico ed eri entrato. E quindi anche oggi credo che con modalità diverse, con valenze diverse, questa formula possa ancora funzionare. Io ho sempre temuto le conserve fatte in casa, i funghi sott'olio, la frutta sciroppata fatta dalle vecchie che non conosci. Temi il botolino. Erano gli anni in cui il botolino non era un supporto alla bellezza o alla sopravvivenza di un aspetto estetico, ma era quella cosa che si sprigionava nelle conserve fatte in casa. Stefano Morigi, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Stefano Morigi, filosofo della scienza, ci riporta all'attualità, alla realtà e ci aiuta a definire il fancazzismo contemporaneo. Irreale, surreale che stiamo vivendo. È possibile definire, mentre si vive un'epoca, gli oggetti simbolo che rappresenteranno questa epoca in tutte le sue pulsioni e tensioni? È sicuramente un esercizio al quale dovremmo abituarci, perché gli oggetti non sono semplicemente cose, sono il precipitato culturale emotivo di un dato periodo storico, sono la nostra interfaccia, sono il nostro, come dire, punto di riferimento di abitudini, di consuetudini, e quindi noi non esisteremmo così come esistiamo senza gli oggetti che usiamo nella nostra quotidianità. E quindi potremmo immaginare anche quello che rimarrà di noi, no? Come esercizio per studiare la nostra civiltà. Allora facciamo un esempio, perché sennò il pubblico vedo capisce male. Mi ha scritto un sms un signore che ha una fresatrice targata Russia sovietica, che ha di 30 anni, però a parte questi oggetti da bricolage, chiamate all'800240024 e vedete che la corrispondenza nei tempi che stiamo vivendo esiste. Ad esempio, il professor Piretto nel suo libro parla della retina per la spesa, che io ancora ricordo come accessorio fondamentale degli anni 60. Cos'era la retina per la spesa? Era la borsa che teneva poco spazio in tasca o nella borsetta delle signore, e che ancora una volta, quale delle nostre nonne o mamme non ha avuto una retina per la spesa? E oggi forse in variante molto più chic alcune signore della Milano Bene o del Beau Monde continuano ad usarla. In Unione Sovietica aveva una valenza ancora una volta specifica e particolare. Aveva anche un nome molto particolare, si chiamava Avoska, un gioco di parole, lo traduco molto semplicemente. Hai visto mai che strada facendo si veda una coda, persone in coda, e che si scopra che sono arrivate miracolosamente le arance? E allora, se non avessimo in tasca la retina, come faremmo a portare a casa le arance, ammesso che prendendo posto in coda al momento del nostro turno le arance non fossero già finite? Quindi si tirava fuori la retina, non esistevano, diciamolo per chi non abbia vissuto quegli anni, né sacchetti di plastica né confezioni di sorta. Le arance o qualunque altro prodotto arrivava in grandi contenitori che venivano rovesciati molto spesso per strada, in mezzo alla strada o in mezzo a una piazza, e se non si aveva un supporto, talvolta si usava la giacca o la camicia per farne fagotto. Quindi questa avosca, questa borsetta, hai visto mai che strada facendo tu mi possa servire, era un attributo senza il quale non si poteva andare a giro. Il corrispondente nella contemporaneità, vediamo se Stefano Morigi è d'accordo, è sì, la busta di plastica del supermercato, che però naturalmente è già connotata di una sorta di stigma di inquinamento, di oggetto brutto, viene sostituita o con la busta di carta o con la bustina di quella cosa puzzolentissima che però è ecologica, che però le signore usano piegata come se fosse un meraviglioso ikebana e lo portano attaccato al guinzaglio del cane come contenitore della cacca del cane. Sei d'accordo che questo può essere un parallelismo? In qualche senso sì, può essere uno dei segni distintivi di questo presunto ritorno alla natura o perlomeno una vita sostenibile, che non poco sta connotando più nella forma che nella sostanza le vite, appunto, soprattutto delle signore ma anche dei signori che ci tengono a esibire questo loro think green, no? In qualche maniera verde. Stefano, è esagerato macroscopico dire che gli oggetti abbiano una loro anima. Noi ci separiamo sempre con grande fatica da alcuni oggetti che hanno segnato alcuni momenti della nostra vita. Esistono degli oggetti che però segnano cosmicamente delle generazioni o dei momenti particolari. Guarda, io ti direi, tu dici gli oggetti non hanno una loro anima, io ti direi che gli oggetti hanno la nostra anima. Ti porto un esempio concreto e storico. Pasolini ricorda la sua prima casa, quella di Bologna, e l'insegnamento che gli oggetti che eredavano quella casa hanno impresso nella sua memoria e nel suo modo di pensare. Ha in mente soprattutto una tenda bianca, quindi un oggetto apparentemente insignificante, non fuori particolarmente dal tempo, non evocativo, una tenda un bianca, non oggetto praticamente. E scrive: ciò che mi ha insegnato quella tenda non ammetteva e non ammette repliche. Con essa non era possibile alcun dialogo, alcun atto autoeducativo. Ecco perché ho creduto che tutto il mondo fosse il mondo che quella tenda mi insegnava. Questa è l'idea della nostra relazione con gli oggetti, dentro cui, dentro le pratiche che disegnano, noi continuamente ridescriviamo. E noi siamo quello che producono gli oggetti, quelle pratiche, quelle consuetudini, quei modi di pensare, esattamente come Pasolini guardava il mondo attraverso quella tenda, perché quella tenda lo aveva educato, uso una parola che lui usava in maniera forte. Mi viene da pensare a alcuni oggetti di vestiario, l'eschimo che segnava un'appartenenza, che è un oggetto che non aveva nessun significato storico alle nostre parti. L'eschimo era un impermeabile da lavoro, da battaglia, adesso non so bene quale sia. Ha acquisito un significato politico e oggi è forse oggetto di nostalgia. Nessuno se lo ricorda, i miei figli dice eschimo, non sanno nemmeno cosa sia, però l'eschimo è stato importante. Generazioni l'hanno portato uno bisunto per anni e anni. Anche sopra la giacca, sopra il vestito, che rappresentava comunque un'appartenenza. Forse un po' come la divisa che i cittadini sovietici portavano negli anni staliniani. La cito perché quando, dopo la morte di Stalin, è salito al potere Khrushchev, con l'epoca detta del disgelo, si sono scongelati anche gli abiti, quindi hanno cominciato, soprattutto i giovani, a vestire in maniera diversa e a scoprire la bellezza e il fascino dell'individualità, quindi del non vivere serialmente, del non essere corpo, soltanto corpo collettivo, ma anche corpo individuale. Quindi l'eschimo era un segnale di appartenenza, forse non ha fatto in tempo dalle nostre parti a diventare divisa in senso stretto. E abbiamo un'ascoltatrice, finalmente Silvia, che ha trovato una chiave di lettura. Intanto sbrigatevi, svegliatevi, 800 24 0024. So che richiedere uno sforzo di astrazione e di uscita dal quotidiano è difficile, ma mi piace che lo facciate. Silvia, allora. Buongiorno Nicoletti. Dunque, secondo me non sono tanto gli oggetti di design come l'iPhone o l'iPad che resteranno a testimonianza della nostra ma non era per perché... Lo sai perché l'ho detto, Silvia? Perché è un oggetto di uso molto comune, ormai è nelle task, nelle mani di ognuno, e ce la ricorderemo questa generazione come la generazione del touchscreen, che fa sempre quel gesto ripetitivo per vedere e controllare il proprio livello di affezione degli amici. Invece lei cosa ha pensato? La generazione del pollice enorme, sì. Ma poi sarà anche secondo me sono le confezioni degli oggetti, cioè il packaging con cui vengono esposti sui banchi dell'Esselunga, per esempio le scatole, le confezioni della ricotta Esselunga Bio, piuttosto che tutta la serie della Coop con questa nuova immagine che è molto affascinante. Noi un tempo andavamo a fare la spesa, compravamo la ricotta, ce la davano nei cartoncini di trasparenti, adesso sì. Invece ci danno, hanno fatto tutto questo studio dei packaging. E poi le sorprese degli ovetti Kinder. Che sono parecchi anni che ci sono quelle. Che oramai sono parecchi anni, però rimarranno come una... Ora sono 20 anni, ecco, secondo me questo ci sono ancora adulti che mettono le sorprese sul loro sì, computer. Ma dunque, diciamo che la mia esperienza personale, ci sono state generazioni di studenti che se le tenevano sulla scrivania, ma c'erano i puffi, c'erano vari animaletti, ma ancora parlo di cose molto arcaiche, oggi sono cambiate. Ci sono signori e signori che nelle loro scrivania d'ufficio la riempiono di sorprese di ovetti Kinder. Non so oggi quale sia, perché poi sono stagionali, ogni generazione c'ha la sua sorpresa, sono quelle che si costruiscono. Comunque quelle sì, quelle potrebbero rimanere, mi sembra giusto. Daniele da Perugia. Salve, io volevo far presente che nei paesi dell'ex Unione Sovietica, in particolare per me la Lituania, ancora c'è l'uso di fare conserve, di prendere la roba dal bosco e metterla in conserva. E come mai lei lo sa, Daniele? Perché la mia ragazza è lituana e mia suocera in continuazione mi manda o per camion oppure quando vado su io quintali e quintali di conserve che loro producono come forma di risparmio anche. E lei ha coraggio di mangiarle, sì? Sì, e sono buonissime, posso garantire. Professor Piretto, confermo che sono buonissime. I milanesi forse conoscono il mercato di Cascina Gobba, dove il sabato e la domenica forse arrivano i camion, i furgoni di cui parlava l'ascoltatore dai paesi dell'est, e portano, oltre ai pacchi per le persone, soprattutto le badanti che vivono in Italia, portano anche prodotti che mettono in vendita, quindi barattoli di conserve, bottiglie di vodka, bottiglie di champagne sovietico, pacchi di grano saraceno. È un mercato molto improvvisato. Luigi ha portato una grappa di grano saraceno, una cosa inguardabile. In un caso ho ricevuto da una signora che, diciamo, mi aiuta nelle pulizie domestiche e mi ha portato come omaggio tornando dall'Ucraina. Ha un'attualità il suo libro, il Sorpiretto, devo dire, data anche dal fatto che la contaminazione oggi è molto più facile che una volta in Unione Sovietica ci andavano come missione politica, ci andavano a fare i viaggi aziendali, ci andavano a fare i viaggi di piacere portandosi valigiate di collant, di finti profumi, di penne biro. Questo nel suo libro è citato nella parte, nell'introduzione si fa una piccola storia delle cose, del valore che le cose hanno acquisito sia da un punto di vista ideologico politico che da quello della pratica quotidiana nei vari decenni, molto sintetico ovviamente. Quindi si parla naturalmente anche degli anni 70, quando prima con i borsisti, gli stagisti stranieri e poi con il turismo di massa, l'Occidente ha avuto mano libera nel circolare, insomma più o meno libera nel circolare per l'Unione Sovietica. Sono nate le prime cosiddette storie d'amore, i primi rapporti intensi, e questi sedicenti fidanzati portavano le loro fidanzate russe, talvolta in omaggio, talvolta come commercio, appunto prodotti vari, e l'Unione Sovietica aveva scoperto, c'era stata una grande passione, una grande indigestione di prodotti occidentali, quindi talvolta di qualità inferiore rispetto a quelli autarchici, ma naturalmente l'aura dell'esotismo aveva fatto nascere il mercato nero e il potere lo aveva condannato, come spesso succede. Giuseppe da Messina, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, oggi è giornata tristissima perché finalmente dopo 4 mesi piovigina. Mi trovavo a Leningrado nel 1974 e avevo adocchiato la ragazza che mi dava le chiavi all'hotel Leningrad, si chiamava Olga. E lei cosa andava a fare? Scusi la domanda, cosa andava a fare a Leningrado in quell'epoca? Falce e pennello. Ah, falce e pennello, cioè c'è un doppio senso. Era un delegato del partito, cosa andava a fare? Non si può dire, Nicoletti. Ah, ma era una spia, cosa faceva? Ormai è passato tanto tempo, il muro è caduto. Lavoravo per il comitato con Dussastiveni e Besopassinostri. Ah, è una spia. Non c'è mica nulla di strano. Siamo a Ferrara. A un certo momento dico, Olga, andiamo. Bisogna pur vivere. Olga gli ha dato le chiavi, poi? No, siamo andati a casa sua. Quando siamo entrati, lei mi disse aspetta e mi lasciò nella prima stanza. Dopo un po' venne fuori una donnina che era la madre con un grande vassoio dove aveva i sottaceti e il salame. E mi lasciò solo con Olga. Era lei, Olga e i cetriolini. E cosa avete fatto? Questo puntini, sono gentiluomo. Un altro episodio molto bello invece, questo più simpatico, che frequentavo a Leningrado un negozio di antiquariato dove i privati portavano gli oggetti preziosi da vendere. E un giorno trovo un orologio bellissimo da tasca con su scritto Dai Compagni 1902 ed era un Audemars. Costava parecchio, io non avevo i soldi, esco fuori e dico, caspita, devo fare soldi subito. E mi sono venduto il cappotto, un cappotto di pelle. E da Ligo Gol si ispirò per il suo famoso racconto. Sono riuscito a comprare quell'orologio, sono tornato in albergo, ero morto dal freddo. Ma dove ancora era Olga lì con i cetriolini che l'aspettava. Grazie. Va bene, mi fa molto piacere. Professor Pieretto, rispetto a questa memoria storica del nostro agente del KGB... Anch'io nel 74 ho esordito proprio a Leningrado, la mia prima visita, il mio primo soggiorno in Unione Sovietica. Confermo il ruolo delle mamme nella gestione del rapporto delle figlie con il fidanzato o i fidanzati. Io ho poi anche lavorato come accompagnatore di turisti italiani e ho visto molti casi di questo genere. Quindi mi fa piacere che ritorni il cetriolo in conserva. E l'altra figura importante che è stata citata è quella della governante dei piani negli alberghi. Le galosce. C'erano una volta le galosce. Sopra scarpe di gomma da applicare sulle calzature vere e proprie quando le condizioni atmosferiche non fossero ottimali, neve, pioggia o disgelo, per proteggere dalle intemperie suole e tomaie di scarpe non sempre adatte alla stagione e alle sue specificità climatiche, nonché per mantenere il piede a una temperatura accettabile e contribuire alla sua incolumità. All'arrivo a casa si abbandonavano le galosce all'ingresso e a scarpe pulite e asciutte si poteva entrare nello spazio privato dell'appartamento. 800240024, questi sono degli oggetti tratti dal libro di Giampiero Pieretto, La vita privata degli oggetti sovietici, Sironi Editore, degli oggetti che comunque noi usavamo ma importavamo ideologicamente o anche inconsapevolmente dal grande impero sovietico. Devo fare una correzione, sennò quando tornerò a Roma mio figlio non mi rivolgerà la parola. Ho detto ikebana per dire origami, in realtà sì, il sacchettino di plastica piegato come un origami è quello che portano le signore quando portano il cagnolino a spasso. Grazie a chi mi ha corretto. Federico, buongiorno. Buongiorno a lei. Non so che attinenza c'ha il suo discorso stamattina con un mio ricordo di quando ero ragazzo. Quando si andava a scuola, poi ci frequentavamo molto fra compagni, e io ricordo gli altarini con l'immagine di Stalin, con il cero davanti acceso, in tante famiglie, in tante case, perché ci frequentavamo moltissimo. Io sono originario della Calabria, ma vivo nelle Marche. In case di persone trovava degli altarini che hanno l'imitazione dell'altarino con l'immaginetta sacra, ma c'era la foto di Stalin. La foto di Stalin, sì, col cero acceso, però sempre acceso in tutte le famiglie dove andavamo, perché un giorno si andava a casa di Federico, un altro giorno di Giovanni, un altro giorno di Paolo, di Francesco, andavamo ogni giorno in case diverse. E io ricordo di trovare queste così. E ma cosa non pregavano davanti a quello di cosa facevano? Salutavano? No, pregare no. Pregare non ho visto, sempre questo culto, non so come definirlo. No, interessante. Allora, professor Pieretto, nel tuo libro c'è un'immagine drammatica ma molto interessante. Il lavaggio del cadavere di Lenin nudo. C'è questo cadavere grigio che lavano 4-5 persone con un religioso senso di rispetto, squartato, c'è un buco davanti enorme, c'ha uno straccio bianco che gli copre le vergogne. Ecco, sì. Che storia c'è dietro questo cadavere di Lenin e questo culto sacro dell'immagine di Stalin che ricorda il nostro ascoltatore? Sì, dunque non fa una grinza la citazione dell'ascoltatore. Intanto inconsapevolmente i suoi compagni, i suoi amici riprendevano una modalità ufficiale ideologica che aveva voluto sostituire nella Russia sovietica quello che era detto l'angolo bello o l'angolo rosso, dove prima della rivoluzione si conservavano le icone. L'angolo più bello della casa era riservato all'icona, all'immagine sacra, sotto la quale immancabilmente ardeva un cero. Il potere sovietico, sfruttando modalità comportamentali già note, ha colmato di significati nuovi dei vecchi contenitori, quindi l'angolo bello delle icone è diventato l'angoletto di Lenin e all'immagine della Vergine si è sostituita l'icona leniniana. non avrebbero gradito il cero acceso, ma la consuetudine tradizionale, forse un po' superstiziosa, della religione ortodossa, molto contaminata da quella pagana, ha continuato ad accendere ceri. Quindi è significativo che anche in Italia questa modalità in qualche modo si sia trasmessa. Per arrivare alla inquietante raffigurazione del cadavere di Lenin nudo e squartato, è una storia che è cominciata nel 1924, quando Lenin è venuto prematuramente a mancare e il potere sovietico, il neonato potere sovietico, si è trovato spiazzato nel dover dare la notizia che il grande capo era morto. E è cominciata lì un'immagine, un percorso di santificazione, di rivivificazione. Cito i versi di Majakovskij che molti forse conosceranno: Lenin ha vissuto, Lenin vive e Lenin continuerà a vivere. Addirittura un'imitazione di Cristo, cristologicamente è stato diviso, separato in Lenin e Ilich, un termine indicava il suo corpo mortale, l'altro il corpo politico, il corpo mistico, addirittura la causa che e non si attendeva mai. Anche una risurrezione Lenin. Si attendeva, sì, una delle ragioni che portarono alla mummificazione, all'imbalsamazione fu proprio questa, si era convinti che la scienza sovietica avrebbe da lì a poco scoperto la tecnica per ridare vita al corpo morto e naturalmente un corpo illustre come quello è stato preservato. Ma era preso in giro, non sapevano c'era un buco davanti di mezzo metro, dentro era svuotato. E infatti come, le immagini come un manichino di ormai. Cui stiamo parlando hanno cominciato a circolare dopo il crollo dell'Unione Sovietica. Prima si sapeva, si vociferava che la tecnica imbalsamatoria fosse ancora molto pionieristica e quindi il famoso Sbarsky, l'imbalsamatore di Lenin, avesse commesso una serie di errori che nei decenni successivi... Ne manca un pezzo. Manca quasi tutto, è stato squartato, è stato violentato di decennio in decennio perché la decomposizione incombeva e imperversava. E oggi circolano queste foto tragiche e impietose, nudo, squartato, giallognolo, grigiastro. Insomma. Sono i piedi in primo piano. Sì. Allora Stefano Moriggi, filosofo della scienza, qualcosa di simile, mi ricordo, accadde il nostro risorgimento con Mazzini, quando morì l'apostolo della patria, lo vollero mummificare, sbagliarono i conti e i tempi e quando fu esposto al pubblico era già bello che marcito, hanno dovuto chiudere la svelta e portarlo via. Perché c'è questo bisogno di riprodurre il percorso del cammino eroico di un santo anche nei santi laici? Perché il concetto fondamentale è quello di reliquia, che sarebbe sbagliato contenere all'interno dei margini della teologia, della religione, della fede. La reliquia è ciò che resta, è ciò che si vuole conservare al di là dei limiti del tempo consentito dalle funzioni biologiche della persona. Un santo è un corpo particolare, un corpo attraversato dalla grazia e l'ossessione nella conservazione delle sue membra e la conservazione del significato che non esiste se non incarnato in quelle membra. Quindi se van perse quelle membra, van perso anche il significato. Vale per un leader politico. E quindi quello vale appunto per un santo, vale per un leader politico e si arriva anche all'ossessione che Giampiero Piretto raccontava nel maldestro tentativo di rimettere insieme il corpo di Lenin, nella speranza più ideologica che scientificamente provata di rimetterlo in vita, vale anche per, e lo dico senza alcuna irriverenza, per quel tentativo che sfocia nelle più come dire ardite frontiere della chimica di trasformare una reliquia di un noto santo italiano nel tentativo di conservarlo addirittura facendogli una faccia di silicone. Sto parlando cioè, abbiamo scritto il libro Moriggi, diciamo, certo. Padre Pio era stato recuperato con il silicone al culto popolare. È un altro tentativo di rivificazione. Passando dal sacro all'ultra profano, Piretto, mi viene in mente che esiste in un museo in Russia il mega pisello di Rasputin ancora esposto al pubblico. Sì, qui scendiamo a un livello molto più divulgativo e molto meno scientifico e meno sacrale. È stato dimostrato che questo immenso fallo di Rasputin altro sotto formaldeide è esposto. È esposto sotto formaldeide, quindi riprenderebbe le tradizioni della Kunstkamera, delle Wunderkammer che Pietro il Grande aveva fondato nella neonata Pietroburgo. In realtà è inserito in un pensa che Nemesis storica. Lo ha inventato il distruttore della sua dinastia, praticamente. È stato esposto con l'oggetto innominabile, che probabilmente è protagonista del decadimento della stirpe. Museo dell'erotismo, e poi è stato dimostrato che si tratta di un cocomero di mare. Quindi non è vero? Non è vero, assolutamente no. Se vai in internet e cerchi Rasputin, finto. È finto e continua ad essere esposto, con la consapevolezza, non so, da parte di quanti dei visitatori, che si vede qualche cosa di fasullo, di mistificato, ma è una specie di crostaceo. D'altra parte Rasputin vive ancora di mitologie, di lontananze esotiche. Per quanti libri siano usciti sulla sua storia, non è ancora stato studiato scientificamente fino in fondo. Sigaretta. La sigaretta sovietica, papirosa, appartiene alla famiglia delle sigarette, ma si distingue nettamente dalla cugina più aristocratica per le sue caratteristiche di produzione, di consumo e per la sua diffusione popolare. Si tratta di un piccolo tubo di carta leggerissima e trasparente, riempito di tabacco trinciato, lungo dai 3 ai 3 centimetri e mezzo, a cui è collegato un altro piccolo tubo di carta più resistente, di circa 4 centimetri, vuoto, che funge da bocchino o da pseudofiltro. Quest'ultimo va schiacciato prima dell'uso, premendo contemporaneamente in direzione opposta con il pollice e l'indice delle due mani, in modo che il cartone si pieghi e formi un'ostruzione all'eventuale passaggio di tabacco alle boccate del fumatore. I più incalliti lo facevano con un colpo di denti. La papirosca è tratta anche lei dagli studi d'analisi del professor Giampiero Piretto, che ha scritto questo libro, La vita privata degli oggetti sovietici, edito da Sironi. Ricordo papirosca, si diceva, professor Piretto, c'era questo lungo cilindro di cartone perché i russi avevano dei guanti grossi per la neve, quindi serviva questa roba, ma è vero? Sì, si dice che la responsabilità fosse dei guanti di lana, appunto, di lana. Che il rischio di fumare una sigaretta normale, quindi la parte che bruciava troppo vicino ai guanti, avrebbe potuto contaminarli. Non so quanto di scientifico ci sia, ma una ragione ci deve essere. Peraltro questi papirossi hanno cominciato a circolare dai primissimi anni post-rivoluzionari, gli splendidi manifesti di pubblicità / propaganda dei primi anni 20 erano quasi esclusivamente dedicati alla promozione di questi papirossi. Roberto, buongiorno. Roberto da Roma, provincia di Roma, sì. Sì, provincia, sì, ne volevo raccontare la mia esperienza, che ho 56 anni, oramai risale a 40 anni fa. In quel periodo si usava comprare le attrezzature fotografiche a bassi costi. Le trovavamo in un luogo particolare, a Porta Portese, dove i russi, appena arrivati col fagottino, portavano macchine fotografiche piuttosto che altre cose. Io comperai per 25.000 lire a quel tempo una, mi ricordo il nome, una Zorchi, una, diciamo, copia della Leica, macchina tedesca fotografica di grande pregio, ed un ingranditore UPA5, un ingranditore che si poteva trasportare dentro la valigetta, e così mi divertivo a stampare. È rimasto impresso tanto, vero che oggi quando trovo quei banchetti, che oramai sono polacchi piuttosto che rumeni, a vendere, vado dai russi, è talmente una prassi, anche se poi... È una cosa molto datata, anni 70, inizio anni 80, forse anche un po' prima, dico, che si andava dai russi a comprare le macchine fotografiche, poi con la foto digitale sono diventati degli oggetti da museo anche quelli. Alessio da Pisa. Mi volevo riagganciare a quello che diceva questo ascoltatore qua, perché praticamente le macchine fotografiche russe fondamentalmente non sono mai morte, cioè a tutt'oggi anche io le colleziono e le uso per lavorare, perché faccio il fotografo, perché danno questa immagine molto molto tipo Instamatic. Con Instagram in realtà è superato il problema, perché ci sono dei filtri che con l'iPhone ognuno può fare foto molto simili, modello vecchie macchine sovietiche, però sì, è vero, danno questo senso in cui l'immagine è patinata e sembra rappresentativa dell'epoca in cui è stata prodotta la macchina, anche se è fatta oggi. Alessandra da Monza. Ah, buongiorno. Sì, eccomi. Allora, a proposito di oggetti che fanno un'epoca, io ho una collezione vastissima, direi 27 o 28 scatole, cominciando dalle pastiglie del Re Sole che esistevano quando ero piccola, io e Caché Arnaldi, a sigari, sigarette delle Laurent, scatole di biscotti, scatole di cioccolatini, scatole del centenario, scatole di centenario di una certa casa che mi pare la Novi, anche una di cartone del primo 1920, scatole di seta anche dipinte a mano. E siccome devo traslocare non ho più posto per metterle, per tenerle, volevo venderle. Se c'è qualcuno a cui può interessare. Ah, cioè si è preso per un mercatino dell'usato? No, non è che sia un mercatino dell'usato, sono cose che sono state vissute e potrebbero essere una prova e riprova di quello che si è usato in determinato periodo. Quindi sono lei queste, sono impregnate dell'epoca che le attraversate? Prego? I suoi ricordi sono legati a queste scatolette di vecchi cioccolatini? Legate, sono lì perché erano molto belle, sono molto belle e mi sembrava di buttarle via, cioè di sciuparle buttandole via. Vabbè, lei tenta un piccolo realizzo. Stefano Moriggi, la signora ha dato lei, la signora che è una collezionista compulsiva, anzi una conservatrice compulsiva, tiene queste scatole e se ne vuole disfare pensando che abbiano già un valore. In realtà quando acquisiscono un valore questi oggetti, chi è che carica l'oggetto anche di un valore reale, di un mercato concreto, al di là quello emotivo? Ma a mio parere lo carica il significato, perché adesso mentre gli ascoltatori parlavano mi veniva in mente che tutti gli oggetti di cui Giampiero parla nel libro sono non solo testimonianze di un tempo, ma testimonianze di uno spazio e nel modo in cui, dei modi in cui lo spazio era vissuto, nella dimensione privata e pubblica, nella dimensione intima e politica. E quindi questo è una, anche dal punto di vista metodologico, un approccio molto raffinato per comprendere dall'interno che cosa è stata in un'ideologia, che cosa è stato il modo di vivere nel pubblico e nel privato quegli anni così connotati e così riletti in maniera talvolta entusiastica, talvolta invece apocalittica. Ma ecco, a proposito di intimità, mi viene in mente un ricordo privato che associerei a uno degli oggetti più inquietanti ma più interessanti della rassegna del Sorpiretto. Ricordo che mia nonna teneva le pagine degli orari dei treni, che erano dei librettini con della carta velina particolarmente delicata rispetto alla carta di giornale, e nel bagno dei nonni si trovavano accanto ai luoghi di comodo. La carta igienica è uno degli oggetti che più ha segnato l'esperienza del comunismo reale. Sì, la scarsità o la totale mancanza di carta igienica ha caratterizzato tutti i decenni del cosiddetto esperimento sovietico. Ancora una volta sappiamo, siamo consapevoli del fatto che dalla citazione di Nicoletti delle pagine dell'orario ferroviario ad altre, anche in Italia o in altre parti del mondo, la carta igienica non è sempre stata disponibile. Era un lusso, dice, perché comprare la carta per quando? E cioè, poi in Unione Sovietica ancora una volta è diventata un oggetto di non culto, cioè è diventata protagonista di una serie di barzellette. E quando nasceva una serie di barzellette voleva dire che il problema in questione era importante. Ma è vero, tu quando andavi a cena da amici tuoi portavi la carta igienica come regalo? Portavo la carta igienica quando appunto come accompagnatore di turisti risiedevo in alberghi per stranieri ampiamente dotati di carta igienica, e allora sottraevo un rotolo quando andavo a cena da amici, e invece dell'amaretto di Saronno, di quelli che erano i regali classici all'epoca, portavo un rotolo che veniva esibito, messo sul comò, sul tavolo, non so, poi l'avranno anche usato, ma credo che prima di passare all'uso era segno di opulenza, comunque era segno, si poteva sfoggiare. Ma come, c'era questa leggenda che con la carta igienica ci facevano i salami, qualcosa del ci genere. Facevano le salsicce, i wurstel, insomma l'equivalente dei wurstel, cioè nuova, però non usata. Questo non lo so, potrebbe, forse bisognerebbe, cioè girava voce che comunque ce n'era poca perché ne è usata per l'impasto ce n'era poca perché è una delle barzellette, doveva finire la carta igienica nell'impasto dei nostri wurstel, quindi una delle mitologie. L'altra, perché si vendono tante copie della Pravda? La risposta viene da sola. Grazie al Sorpiretto, grazie Stefano Moriggi, grazie colleghi, grazie della sede di Milano, e vi salutiamo e ci sentiamo domani.